Italia in controluce. Buongiorno, buona mattina, oggi è il 14 gennaio di Italia in controluce, questa è la prima edizione, le edizioni che raccontano la politica, la cronaca italiana, il costume, la cultura e lo spettacolo. Buona mattina a tutti da Daniele Biacchesi. Si chiude oggi il nostro viaggio tra gli amministratori virtuosi e più amati dai cittadini secondo la classifica recente stilata dal Sole 24 Ore. Dopo Renzi, De Luca, Scopelliti e Zaia, Jacopo Matano ha messo oggi a confronto Sergio Chiamparino, sindaco di Torino del PD, e il presidente della provincia di Caserta, Domenico Zinzi, dell'UDC. Dopo 10 anni avere una conferma, diciamo così, sul podio della graduatoria dei sindaci, certamente è un segno che comunque dà soddisfazione, perché vuol dire che c'è alla fine un gradimento, una fiducia strutturata che credo legittimamente dia soddisfazione. Prima le Olimpiadi invernali, poi i tanti eventi culturali, ma finita l'euforia sta calando l'interesse su Torino? Io colgo anzi addirittura, se si può dire, una crescita di interesse, perché se guardo per esempio i dati dei visitatori vedo che dopo le Olimpiadi noi siamo cresciuti, vuol dire che la città è entrata in una rete, che c'è un passaparola che oltre alla comunicazione che facciamo rende Torino una città interessante da visitare, e io penso che quest'anno, tra l'altro con i 150 anni dell'Unità d'Italia, lo sarà ancora di più. Questi sono giorni decisivi per il futuro del tessuto produttivo della sua città, in attesa del referendum di Mirafiori. Che aria si respira a Torino e se c'è paura di un possibile ritorno ad un clima di violenza? Ma adesso al di là di alcuni episodi che non si possono sottovalutare, come le scritte contro Marchionne e contro la CIS, però lo spirito della città non è assolutamente improntato a questo tipo di tensione. C'è naturalmente grande interesse e attesa, perché non ne va solo del futuro di Torino, ma direi di una parte consistente del sistema industriale italiano. Io non sono in grado di far previsioni, mi auguro prevalgano i sì, perché se prevalgono i sì, come dire, resta tutto aperto, non solo la prospettiva dell'investimento, ma anche la prospettiva di dare risposta alle criticità che pure ci sono in questo tipo di accordo. Se dovessero prevalere i no, temo che calerebbe una specie di nebbia, un limbo sulle prospettive non solo di Torino, da cui difficilmente vedrai come uscirne. Ecco, proprio sulle prospettive, lei sta terminando il suo mandato, qual è il futuro di Torino nel dopo Chiamparino? In parte dipende anche da cosa avverrà in questi giorni, se come mi auguro stiamo prendendo le prospettive per Mirafiori, io penso che ci siano tutte le condizioni create con l'accordo fatto con Marchionne 5 anni fa, perché Mirafiori non sia solo più uno stabilimento produttivo, ma sia una sorta di vero e proprio hub dell'innovazione legata alla mobilità sostenibile. Abbiamo fatto un buon lavoro, abbiamo incominciato dalle emergenze, ma senza trascurare l'ordinario, l'emergenza rifiuti. Oggi, dopo 9 mesi di lavoro, posso dire che Caserta non avrà mai un momento di emergenza, tanto è che noi per il buon lavoro che abbiamo fatto siamo stati già in condizione di offrire anche un po' di solidarietà a Napoli. Senza Caserta Napoli non sarebbe mai uscita dalle emergenze. Ecco, non è che questa, diciamo così, ospitalità nei confronti dei rifiuti di Napoli, che anche recentemente è stata rinnovata, vi creerà qualche problema? C'ho un margine entro il quale offro solidarietà, ma in quello spazio consentito che non mi fa andare, diciamo, in tilt. Ed è anche una solidarietà compensata poi, perché lei sa che gli impianti lavorano, però lavorano con retribuzione, proprio come risposta all'impegno, al buon lavoro che abbiamo fatto. Io avrò 2 impianti pronti per aprile-maggio, per cui potrò anche ospitare i rifiuti percolati nell'umido. Chi vuole conferire a noi però paga. Quando si parla di rifiuti viene subito in mente la camorra. L'altro ieri è stato arrestato Mario Iavarazzo, il presunto reggente del clan degli Schiavone. Ecco, nella provincia di Caserta ci sono Casal di Principe e tante altre zone critiche. Il primo atto che io ho compiuto nel momento in cui mi sono insediato, ho costituito un osservatorio per la legalità e sicurezza. In questo senso noi abbiamo stabilito un coordinamento con le altre strutture, con le altre associazioni che si muovono, Libera, che si muovono su questo terreno, e quindi stiamo portando avanti un buon lavoro. Innanzitutto vorrei sottolineare che è stato fatto un ottimo lavoro fino a oggi dalle forze dell'ordine, dalla magistratura, perché no, anche c'è stata una volontà del governo che è andato in questa direzione. È nato un modello Caserta che è diventato anche un modello esportabile. Nella notte tra il 14 e il 15 gennaio del 68 un violento terremoto colpiva una vastissima area della Sicilia occidentale, compresa tra la provincia di Agrigento, quella di Trapani e quella di Palermo. Era il terremoto del Belice, lo ricorda per noi Sabrina Piso. Quando è arrivato il terremoto, avevamo appena finito un'assemblea popolare al comune di Vita ed eravamo un gruppo in piazza che stavamo commentando questa assemblea. Ma improvvisamente la prima cosa che mi ha fatto molto impressione era il portone già chiuso del comune che faceva avanti e indietro da solo. In piazza c'era un gruppo di ragazzini che giocava inseguendosi, esce un uomo da una porticina della piazza, acchiappa un bambino, lo trascina dentro dicendo: dentro, disgraziato, che c'è lo terremoto, no? E lo chiude dentro e mette i catenacci, come se per chiudere il terremoto fuori. Il sociologo Lorenzo Barbera, amico e compagno di Danilo Dolci, non ha dimenticato la notte tra il 14 e il 15 gennaio del 1968, quando pochi secondi hanno cambiato la storia del Belice. 400 morti, un migliaio di feriti, 98.000 persone senza un tetto. Dopo 40 anni, Barbera, con il Centro di Ricerche Economiche e Sociali per il Meridione, ha deciso di portare avanti un progetto sulla memoria. Foto, documenti, filmati per salvare la testimonianza di una straordinaria partecipazione popolare. Con questo progetto intendiamo anche recuperare quello che è stato il pre-terremoto, un periodo perlomeno dal 1960 in avanti, perché era nato un movimento per lo sviluppo assolutamente popolare, 25 i comuni, 200.000 abitanti coinvolti. Il problema era lo sviluppo, come arrestare l'emigrazione, come creare occupazione, piena occupazione, basandosi sulle risorse e le potenzialità locali. Il dramma della popolazione del Belice trova ascolto nel poeta ed educatore Danilo Dolci, che nato a Trieste negli anni 50 sceglie la Sicilia per portare avanti la sua rivoluzione non violenta per il pane, la democrazia, il lavoro. Per denunciare la disoccupazione cronica, Dolci nel febbraio del 1956 organizza uno sciopero alla rovescia, i braccianti accanto ai pescatori e agli intellettuali, tutti non pagati per costruire una strada. Lui cominciò a domandare a Partinico, alla gente in riunione che si facevano allora presso la Camera del Lavoro, gli operai, per fare sentire il loro peso e portare avanti il loro interesse, scioperano, e cioè smettono di lavorare. I disoccupati che fanno? Si mettono a lavorare. E a questo punto a lavorare a fare che? E venne fuori uno sciopero alla rovescia, e cioè anziché smettere di lavorare, la gente che si organizzò con Danilo, che è stato formidabile in quell'epoca, si andò. Allora io in quell'occasione conobbe Danilo sulla trazzera vecchia di Partinico, che era un'arteria importante per gli agricoltori. La sola parola sciopero fece intervenire le autorità, furono tutti arrestati. Il processo fece storia con il giurista Pietro Calamandrei, che per Dolci pronunciò un'indimenticabile arringa, senza riuscire però a risparmiargli un anno di carcere. Il Gandhi del Sud, come tutti lo chiamavano, aveva dimostrato col suo gesto che era possibile avere un'occupazione. Il 25 marzo 1970 nasce Radio Libera Partinico. Salvo Vitale in un libro racconta la storia e il significato della radio dei poveri cristi. Ho trovato un ciclo stivato scritto di pugno da Danilo Dolci, in cui c'era tutto il progetto di questa radio, essenzialmente con una serie di premesse teoriche, cioè a che cosa avrebbe dovuto servire una radio. Uno dei problemi che Danilo si pone e che si è sempre posto nel corso della sua vita è quello del trasmettere, del comunicare. La radio avrebbe potuto essere un momento solo di trasmissione, per cui come cercare di andare oltre questa sorta di barriera? Intervistando la povera gente, quello che lui chiamava i poveri cristi. Nel caso specifico la povera gente erano i terremotati del Belice, che dopo il terremoto del 68 non avevano ancora ricevuto né una lira né un minimo di assistenza, ed erano costretti a vivere in condizioni assolutamente bestiali. Quindi quella radio serve per evidenziare a tutto il mondo un problema, per cercare di spingere lo Stato a smuoversi. A due anni dal terremoto, Danilo Dolci denuncia come la ricostruzione sia ferma. Si marcisce di chiacchiere e ingiustizie, dice. La Sicilia muore. La trasmissione inizia con un SOS. SOS, qui si sta morendo. Questa è la radio dei poveri cristi, questa è la radio della nuova resistenza. 26 ore dopo i poliziotti fanno irruzione. Si chiude così la prima radio libera del paese, ma non si spegne la sua voce, che sopravvive insieme alle battaglie condotte da Dolci e Barbera per una ricostruzione democratica e partecipata. Come scriveva Leonardo Sciascia, lo Stato italiano non era pronto ad accogliere un'istanza di ricostruzione che non fosse una ricostruzione della miseria. Si sperava nella fuga, nell'abbandono, ma nel Belice ha trovato un centro di resistenza. La prima edizione di Italia in Controluce, il blog di questo programma l'ho trovato dritto nel sito radio24.it. Poi avete tre possibilità per comunicare con noi: su Facebook Radio 24 Italia in Controluce, in Controluce su Twitter, la mail controluce@radio24.it. Torniamo oggi alle 13.30. Vi anticipo subito che ogni venerdì a partire da oggi Piera Ceci inizia il suo percorso di scuola in Controluce, il programma dedicato alla scuola e all'educazione di Radio 24.